Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, è la sua seconda puntata e torniamo su un tema già altre volte trattato, quello di Carlo Pagliarini, ma lo facciamo con quest'ultima produzione, un libro edito da Pendragon e frutto del lavoro del collettivo dell'associazione Pionieri, il CRAP. Il titolo è Carlo Pagliarini, associare i ragazzi, il tutto coordinato e a cura di Marco Fincardi e dello stesso CRAP, un libro corposo che tiene diverse memorie di Carlo Pagliarini. In questo testo c'è anche un po' di Radio Città Fujiko, perché nella parte finale c'è un capitoletto dove si ricordano tutte le trasmissioni fatte in passato appunto su questo personaggio così importante che assieme a Dina Rinaldi e Gianni Rodari hanno scritto una pagina di storia dell'educazione e dell'associazionismo per ragazzi. Dunque sarà una trasmissione interamente dedicata a questa produzione, perché ascolteremo dalle parole dello stesso Marco Fincardi, che è curatore di questo libro Carlo Pagliarini e Associare i Ragazzi. Da Marco Fincardi sentiremo appunto il perché e il per come di questa pubblicazione, di questo impegno che è un saggio ma anche una memoria di un personaggio così importante nell'associazionismo per i giovani. Quindi al posto musicale l'intervista con Marco Fincardi. Ci ha raggiunto in studio Marco Fincardi, che ha curato questo testo. Lì a copertina vede appunto la figura dei Pagliarini, dei ragazzi che marciano in fila, e la copertina del Pioniere. Se diciamo Pioniere tutti pensano anche a Gianni Rodari. Carlo Pagliarini sicuramente meno conosciuto, allora con Marco chiediamo chi era Carlo Pagliarini. Carlo Pagliarini era, dopo la seconda guerra mondiale, da cui era uscito partigiano a 18 anni, un giovane che era attivista in quello che allora si chiamava il Fronte della Gioventù e che poi sarebbe diventato la Federazione Giovanile Comunista una volta rotta l'unità del CLN. La precedenza era l'Associazione dei Giovani, che faceva riferimento alla Resistenza. Dopo, negli anni immediatamente seguenti, del 1946, lui si incarica di costituire l'Associazione Giovani Esploratori a Reggio Emilia. Lui era originario di quella provincia, ma nel 1948 viene incaricato di cominciare a preparare quella che poi diventerà l'Associazione Pionieri d'Italia e il giornalino Il Pioniere, che coinvolgerà Gianni Rodari, Dina Rinaldi e moltissimi disegnatori e autori di testi che immagino gli ascoltatori di Radio Fujiko conoscano, perché ci sono state diverse trasmissioni sull'argomento. La cosa importante di questa associazione Pionieri, al di là di quella che è stata la sua storia, che è durata fino agli anni 50, poi ha avuto delle continuità con vari campeggi che hanno continuato a organizzare i ragazzi che erano stati coinvolti nell'associazione Pionieri, poi ha dato sbocco, sempre diretta da Pagliarini, all'Arci Ragazzi. Ma al di là di questo, è stato un percorso che, al di là della vita associativa che ha coinvolto poco più, circa 150.000 ragazzi negli anni 50, è stata un'attività importante, perché è stato qualcosa che ha coagulato e ha mobilitato attorno a sé quelle che erano le avanguardie pedagogiche di quegli anni. Quindi parliamo di tante figure, a parte Rodari stesso, ma Bruno Ciari, Mario Lodi, tante figure, soprattutto Ada Gobetti, che è stata molto attiva nella collaborazione con l'associazione e nel promuovere poi una nuova rivista dell'associazione a carattere pedagogico, esperienze educative, ma anche Concetto Marchesi, ecco, tante figure dove veniva mobilitato anche un associazionismo degli adulti. Parliamo dell'Unione Donne Italiane, parliamo delle associazioni sindacali, del movimento cooperativo, in un progetto di cambiare il destino dei ragazzi, di avviarli a un tipo di attività culturale culturali che per il mondo operaio, contadino, che usciva dalla guerra, erano cose impensabili. Era un universo negato, insomma. Certo, ecco, quindi si è aperta una strada che prima sostanzialmente non esisteva. Prima c'erano state le associazioni di massa del regime fascista che intruppavano, che educavano a un'educazione militaresca, anche di sopraffazione, cose di questo genere. La resistenza invece, nella interpretazione che ne dà Pagliarini, è quella proprio di avviare un destino nuovo ai ragazzi e quindi di coinvolgere in attività creative, in attività anche di gioco, di esplorazione delle città, delle campagne, di comprensione di quello che è la società e il mondo del lavoro, che è un'esperienza del tutto inedita per l'Italia. Esisteva già in altri paesi del centro-nord dell'Europa, ma in Italia era qualcosa di assolutamente inesistente prima. They call me poor boy, poor boy, poor boy, but I ain't lonesome. And I ain't blue, 'cause I could never be a poor boy as long as I've got a darling like you. Ain't got a crust, ain't got a cent, can't buy a jug, can't pay the rent. I got a heart full of dreams and a lot of memories, and that's enough for me. They call me poor boy, poor boy, but I ain't lonesome and I ain't blue, 'cause I could never be a poor boy as long as I've got a darling like you. Can't buy a house, can't buy a lot, ain't got a bean, ain't got a pot, but what I got is a heart. Ascoltando Poor Boy di Elvis Presley, perché i ragazzi poveri sono poveri in tutto il mondo uguale, andiamo anche alla seconda parte di questa intervista con Marco Fincardi, che ha curato per l'appunto questo libro Carlo Pagliarini, Associare i ragazzi. Prima abbiamo ricordato chi è Carlo Pagliarini, ora vediamo perché e come questo libro. As long as I got a darling like you. Un libro che nasce con la pubblicazione di alcuni inediti di Pagliarini scritti a posteriori. Sì, sono scritti di metà anni 80, in cui lui rievoca quella che è stata la sua esperienza degli anni 40 e 50. Rimette insieme, ricollega tante figure di educatori che oggi spesso sono studiate singolarmente, ma qui proprio raccontate da Pagliarini invece sono presentate come delle figure che facevano parte di una rete collaborativa che non solo metteva insieme degli educatori, ma metteva insieme anche i ragazzi da avviare a un'educazione di tipo nuovo. Quindi c'è questo tipo di esperienza che è stato molto caratterizzante di quel periodo e che probabilmente non avrebbe prodotto anche quello che è stato il seguito in età successiva, in cui non è più esistita l'associazione Pionieri, ma tutto quello che era stato seminato con quell'associazione ha dato innumerevoli frutti che poi hanno caratterizzato dagli anni 60 in poi, dall'affermarsi del boom economico in poi, tante operazioni d'avanguardia all'interno dei servizi sociali, cose del genere. Ecco, l'incubazione io credo che sia molto in quel tipo di impostazione dato all'associazione Pionieri, non solo da Pagliarini ma dagli altri che hanno collaborato con lui e che, di cui lui rende conto in queste sue memorie. I testi che poi tu hai curato, presenti anche introducendoli storicamente, hanno una copertura molto vasta della materia, da evidenti di cronaca, scontro con la Chiesa, condizione giovanile, rapporti con la pedagogia dell'Est Europa, i campeggi, si parla anche di un cane, che il campeggio era una figura portante. Una mascotte. Sì, una mascotte. Che... Ecco, tu lo definiresti più un libro storico, politico, educativo, pedagogico, come ti sembra il segno principale? È innanzitutto un testamento esistenziale, ha voluto essere una memoria scritta a posteriori, ma proprio per raccontare un percorso straordinario. Al testo poi dopo a queste memorie che riguardano la fine degli anni 40 e gli anni 50 abbiamo aggiunto anche tutta una selezione di testi, di interventi ormai di un Pagliarini anziano che negli anni 80 e 90 fa interventi ai vari congressi dell'Arci Ragazzi, dove si parla di temi del tutto nuovi, di incontro, o meglio ho detto del tutto nuovi ma in realtà non del tutto nuovi, che sviluppano appunto quelle che erano state le premesse che lui racconta nelle sue memorie. Quindi noi abbiamo aggiunto alle sue memorie questi racconti di quello che può essere l'integrazione dei ragazzi ragazzi italiani con quelli immigrati, la scoperta e esplorazione delle città alla ricerca di spazi di gioco che oggi nelle città in cui viviamo sembrano impossibili, organizzazione di esperienze di viaggio dei ragazzi, di viaggio non semplicemente per andarsene in giro da qualche parte del mondo, ma proprio per scoprire il mondo. Ci sono tutte delle elaborazioni, chiaramente in una società del benessere che non è più quella degli anni 40 e 50, di progetti educativi che erano stati impostati molto tempo prima. Tu dici noi abbiamo aggiunto, abbiamo fatto noi Maiestatis, oppure è un lavoro diverso? C'è stato un lavoro collettivo su questa, per produrre questo libro. C'è stato l'impegno di tante persone che hanno digitalizzato queste memorie, le hanno corrette accuratamente. C'è stato una elaborazione, io stesso ho presentato tutti i capitolo per capitolo, proprio cercando di contestualizzarlo storicamente, per quelle che sono le mie competenze di storico del mondo giovanile. E poi ci sono articoli che vengono da Sergio Martelli, è stato il responsabile dell'associazione Pionieri a Bologna e ci ha proposto lui stesso, ci ha fatto scoprire lui questo testo di memorie che Pagliarini aveva prodotto per pubblicarlo, ma che poi non era mai sboccato in una pubblicazione. Sergio Martelli è scomparso recentemente, nel Natale scorso, e ha proposto al centro ricerche sull'associazione Pionieri, di cui lui stesso faceva parte, con questa pubblicazione. E in diversi ci siamo messi al lavoro, ci ha lavorato una decina di persone tra reperire le fotografie del corredo, appunto preparare i testi, elaborarli, e a tutte queste cose si è aggiunta anche la collaborazione di Michela Marchioro, che era stata l'amica di Pagliarini, aveva preso i contatti con lui quando faceva la sua tesi di laurea e poi è quella che ha fatto arrivare a Bologna tutto l'archivio Pagliarini. Sono 24 buste di documenti che spaziano appunto dall'associazione Pionieri al periodo in cui ha diretto il settore teatrale dell'Arci, fine anni 60 e inizio anni 70, poi il periodo dell'Arci ragazzi. C'è una documentazione su cui vari storici dell'educazione hanno cominciato a lavorare e che è qualcosa di ricchissimo. E poi anche un intervento di Dorena Caroli sulla comparazione internazionale, sul vedere le possibili somiglianze, ma soprattutto poi le differenze che possono esserci state tra l'esperienza italiana dei pionieri e quella invece dei pionieri sovietici, che era quella che aveva dato un modello di riferimento che poi nel caso italiano era stato ripreso in un modo assolutamente originale, se vogliamo anche deviante, rispetto a quella che era anche l'intruppamento, seppure con molti aspetti anche positivi, anche in quel caso esperienze pedagogiche d'avanguardia, che era stata quella dei pionieri sovietici, un'esperienza in quel caso che aveva interessato qualche centinaio di milioni di ragazzi nel periodo di esistenza dell'Unione Sovietica. Yeah. E questo è l'inno dei pionieri dell'Unione Sovietica, e chi ha in testa l'inno dei pionieri italiani ci capisce quanto sia più ricco, più di Stato, tra virgolette, questo inno, che non quello più molto più casereccio di casa nostra. Ma veniamo invece anche all'ultima parte di intervista con Marco Fincardi, ricordo ancora una volta coordinatore di questo libro, Carlo Paglierini, Associare i ragazzi, e facciamo allora un confronto tra ieri e l'oggi. Da queste testimonianze viene fuori che c'era negli anni 50 un dibattito molto forte, a volte anche molto aspro, difficile, nella sinistra, che riguardava l'educazione delle giovani generazioni. Oggi questo dibattito è molto diverso, molto più sopito. Questo libro, a tuo parere, chi può essere rivolto? Cosa può risvegliare come lettura? Sicuramente agli esperti del settore, ai giovani interessati, anche studenti che siano interessati a questi temi, proprio di come siano stati proposti dei modelli comportamentali nuovi, assolutamente innovativi, perché se c'è stato un momento in cui la Chiesa Cattolica Italiana, l'Episcopato Italiano, ha dato la scomunica ai pionieri e ai loro genitori e ai loro educatori, la cosa aveva un suo senso in un clima in cui, finito il fascismo, si mirava a un nuovo conformismo, e in quel caso invece le proposte educative di tipo diverso, nel modo più laico ma anche più aperto possibile a tutti i vari contributi che potevano arrivare nell'introdurre dei linguaggi nuovi per parlare ai ragazzi e tra i ragazzi, è stato qualcosa che ha dato degli indirizzi che poi sono stati ripresi da altre parti, perché l'esperienza poi non è sempre stata sostenuta con coerenza dalla sinistra italiana. E quindi anche vedere quello che poteva essere un grande movimento di sviluppo che proponeva una vita nuova ai giovanissimi italiani, e che in quella fase non ha potuto affermarsi. Per affermarne alcuni aspetti ci è voluto moltissimo tempo, anche, ma poi perdendo nell'individualismo che Pagliarini trova poi nelle sue analisi degli anni 80 e 90, quando dirigeva la rivista L'Albero a Elica, c'è un guardare ormai non più a un movimento, a dei ragazzi che restano in contatto tra di loro in un circuito virtuoso, positivo, ma così c'è la rete sfilacciata dei social media, e quindi vedere quello che è stata un'esperienza di associazione diretto, non a distanza, non via etere, per i giovani, e vedere come ha potuto funzionare o non funzionare negli anni 50 può essere un'esperienza interessante, anche direi anche dal punto di vista politico, di quanto un progetto innovatore possa trovare sostegni che lo capiscono o che lo capiscono solo in parte, e tutte le difficoltà che la realizzazione di un progetto del genere può incontrare nel suo proporsi. Oggi ormai non ci sono più delle reti associative dirette che coinvolgano la gioventù, i giovani sono in rete, isolati di fatto tra di loro, quindi fare un confronto tra quello che poteva essere la proposta di un incontro diretto di socializzazione, non di socializzazione virtuale ma di socializzazione dal vivo per i ragazzi, con quello che può essere il livello della socializzazione oggi attraverso i social media, attraverso i telefonini, i computer, con quello che era la partecipazione, appunto il coinvolgimento in esperienze di esplorazione delle città, delle campagne, delle fabbriche, del mondo del lavoro o dei campeggi, vissuti come una vita di tipo nuovo rispetto alla vita dei ragazzi che venivano avviati al lavoro da piccoli, anche mentre frequentavano la scuola oppure proprio disertando la scuola per mandarli al lavoro, cose del genere, è qualcosa di, non fosse altro che per il contrasto, per quello che può avere con la vita di oggi, credo qualcosa, una lettura molto stimolante che può dare, insegnare molte cose. E allora, in ultimo, in questo contrasto, guardare quegli esperimenti da allora di aggregazione di ragazzi è in qualche modo riproponibile oggi o anacronistico? Bisogna essere rodariani e impossessarsi di nuovi media per fare una cosa antica, oppure l'orgoglio e il coraggio di presentare quelle cose da allora? Beh, credo che sia la seconda che hai detto, quella di essere rodariani e di impossessarsi del linguaggio dei nuovi media, per vedere quanto si possa anche far rivivere di socializzazione diretta, anche quindi di far riprendere delle reti associative, non solo quindi dei momenti di incontro, di vita comune, non solo di rappresentazioni della vita attraverso i social media, attraverso gli scambi che possono funzionare tra i media. Credo che le due cose possano marciare insieme, non credo sia storicamente riproponibile semplicemente come alternativa pura l'associazionismo, perché oggi sia tra i ragazzi, ma in particolare tra i ragazzi, ma anche tra gli adulti, l'associazionismo è chiaramente veramente in crisi e ci sono delle ragioni della vita che facciamo, ce lo spiegano. A parte questo, credo che anche i social media da utilizzare, il fatto di essere tranquillamente in contatto col resto del mondo, anche con persone che non conosciamo, può essere un'esperienza arricchente, credo, se la coniughiamo con il contatto diretto con le persone, col confronto, che non si risolve in qualcosa di astratto e alla fin dei conti e certe volte anche alienante. Mettere assieme le due cose e non trascurare nessun mezzo di comunicazione nuova. Rodari ha avuto degli scontri anche col Partito Comunista, assieme a Pagliarini, sulla questione dei fumetti che il Partito Comunista faceva fatica a digerire, anche se alla fine li finanziava poi in fin dei conti. Però questo volere usare tutti i mezzi che la modernità ci dà per fare cose umane, di incontro, di affratellamento, di condivisione di vita fisica proprio, credo sia la strada che sostanzialmente anche questo tipo di esperienze, tutto quello che Pagliarini ci racconta, sia per gli anni 50 che per gli anni 80 in questo libro, sia qualcosa di sicuramente istruttivo. Se tutte le ragazze del mondo si dessero la mano, si dessero la mano, allora ci sarebbe un giro tondo intorno al mondo. Ragazzi del mondo volessero una volta diventare marinai, allora si farebbe un grande ponte con tante barche intorno al mare. E se tutta la gente devo confessare in ultimo che siamo molto orgogliosi di aver partecipato nel nostro piccolo a questa produzione, perché è un libro credo di valore. Per chi volesse naturalmente acquistarlo, va da sé, c'è in libreria, c'è online, ma c'è anche qui, telefonando alla radio, chiedendo di Alfredo al 346458, avremo il modo di farvi avere il testo. A proposito, il costo è di 20 euro. Con questo diciamo proprio tutto, ciao, a risentirci alla prossima. Rrrr.